Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, per le notizie della settimana dell'economia sociale. Cominciamo subito con lunedì, con domani si chiudono le candidature del premio Impresa Ambiente 2011, dedicato a quelle aziende che fanno della politica verde la leva essenziale per la competitività sia a livello nazionale che europeo. Vi ricordo che le informazioni potete trovarle sul sito di premioimpresaambiente.it o sul sito della Camera di Commercio di Roma che promuove l'evento. La premiazione avverrà ad Ecopolis il 23 e 25 marzo alla Fiera di Roma. Giovedì in Asso Lombarda a Milano, Fondazione Sudalitas invece presenta in anteprima i risultati della ricerca per una filiera sostenibile, il punto di vista di imprese e consumatori. Siamo sempre dunque nell'ambito dell'azienda che investe sul cosiddetto segmento verde. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con GFK Eurisco. Venerdì si chiudono a Roma le iscrizioni alla Rom Cup 2011, il quinto trofeo internazionale della città di Roma di robotica. Si tratta di un evento più unico che raro per il nostro paese, ce lo descrive Alfonso Molina, che è professore di strategia delle tecnologie all'Università di Edimburgo e direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale che organizza Rom Cup. Questo anno l'evento Rom Cup è veramente ricchissimo. Avremo un'area dimostrativa sull'eccellenza della robotica italiana, dove tra i presenti ci sarà tutta la filiera, dalla scuola primaria alle università fino alla industria. Infatti prevediamo la partecipazione di oltre 3.000 studenti ai laboratori didattici. Ma la grande novità sarà il seminario e l'accordo di rete sulla robotica educativa, che è riuscito a mettere insieme i più grandi nomi della robotica italiana e ad unire le varie realtà del settore per lavorare alla costruzione di una strategia di lungo periodo per l'Italia. Credo che questo sia l'inizio veramente di un'esperienza unica nel nostro paese e possibilmente nel mondo. Ovviamente c'è la parte più divertente e tradizionale, che è la sfida tra i robot programmati da scuole e università di tutto il mondo. Nella parte della università parteciperanno università degli Stati Uniti, della Francia, Iran e altri paesi. Però la parte più divertente è esattamente quella che concerne la scuola elementare, che è molto appassionante e lascia un seme per lo sviluppo della robotica di un'età molto molto presto. Grazie al professor Alfonso Molina. E andiamo avanti con un osservatorio sulla povertà. È un osservatorio sperimentale che nasce tra la Regione Lazio e la comunità di Sant'Egidio Acap Ollus e che servirà proprio a seguire, a controllare, ad analizzare i flussi di povertà ed esclusione sociale. 13 stazioni ferroviarie della provincia di Sondrio saranno ristrutturate e concesse in uso gratuito per 5 anni ad associazioni culturali, opere sociali e società no profit. Davvero un'iniziativa interessante e soprattutto utile. Dal 3 marzo ci sarà la pubblicazione del bando regionale. Da questo momento, dal 3 marzo, i comuni avranno 60 giorni di tempo per presentare le domande alla Regione Lombardia e al gestore dell'infrastruttura, che è quindi le Ferrovie dello Stato. Sono le stazioni di Valtelline e Vecchiavenna, ci sono quelle di Dubino, Morbegno, Bianzone e tante altre. Mi raccomando, presentate la richiesta entro il 3 marzo. Un'ultima notizia riguarda le detenute di Torino che si sono, come dire, messe a lavorare e sono diventate piccole imprenditrici. La casa circondariale Lo Russo e Cutugno infatti porterà nei prossimi giorni, anzi esattamente il 4 marzo, metterà nelle profumerie torinesi in vendita il profumo che si chiamerà Profumo di Fumne, che vuol dire donne in piemontese. Per oggi è tutto, vi ricordo di informarci sulle vostre attività di responsabilità sociale e no profit a ferrybot@radio24.it, in redazione Anita Panizza, in regia Pietro Lacorte. Ci risentiamo.